sadismo e perversione, un cumulo di grida. C'è anche il resto e tutto insieme alla sua cagna si apprestano a guardare ciò che chiamano corrida. Ci sono sotto dei contratti da milioni e per lo Stato è un evento nazionale. Ed affluiscono migliaia di coglioni, non si riesce più a capire chi è l'uomo e l'animale. Allora accattoro, accattoro, accattoro, accattoro, accattoro, accattoro. Vuol dire rose, rosse e baci. Per noi sono solamente tanti macellai. Ma tu sei ancora peggio perché guardi e taci e credi che comunque il conto poi non pagherai. Accattoro, accattoro, accattoro, accattoro, accattoro, accattoro. Insieme attendiamo la giornata e per il toro sia gran rivoluzione. Dita incrociate aspettando l'incornata. Addio Toreador e culo alla nazione. Chiquita, chiquita. Accattoro, accattoro, accattoro, accattoro, accattoro, accattoro. Insieme attendiamo la giornata e per il toro sia gran rivoluzione. Dita incrociate aspettando l'incornata. Addio Toreador e in culo alla nazione. E tutti insieme attendiamo la giornata e per il toro sia gran rivoluzione. Dita incrociate.